Thank you. 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月，接下来和你一起分享安德烈·博切利的专辑《心醉神迷》中的音乐，歌曲分别是《如此伟大的爱》、《恋爱中的战士》、《我想如此生活》、《桑达露西亚》、《登山缆车》、《因为你从海边来》、《格拉纳达》、《那正是五月》、《马来卡莱》、而你依然沉睡，勿忘我，普尔钦内拉。 Sento sul viso il tuo respiro, stringiti forte a me, non chiederti perché, la sera scende già, la notte impazzirò. In tasti braccia, non te vaso questa faccia, non ti stregne forte in braccio a me. Ma scetanna, ma sti suona, ma fai chiagnere per te. Prima l'urdemo sarai per me. Scrive sempre sta contenta, io non penso da te sola, non pensiero me consola, che tu pienze solamente a me. Ah, che un belle tutte belle, non è mai che un belle te. L'urdemo sarai per me. Ai vita mia, ho il cuore, visto cuore, sei stato il primo amore, e il primo l'urdemo sarai per me. Felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice, vivere lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospiro il mio cuore, forse non s'usano. Per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospiro il mio cuore, forse non s'usano. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio. che per la vita non ti lascio mai più.Con amor, va tu per me, va che la mia felicità vive solo di realtà, vicino a te, voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente, voglio vivere godere.Costa niente, ti amo ardentemente per ruscello impertinente menestrello dell'amor. La violina delle piante tiene in festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto, canto per me.Dorma, accarezzi dai calor, stai buono tu, tu che respiri il mio respir, ogni pena sai lenir, campagna tu, voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente.Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Oggi amo ardentemente per uccello impertinente menestrello dell'amor. La fiorita delle piante tiene in festa questo cuore, sai perché?Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per me.

life love, and hold my hand and lift my eyes above. A wider world of hope and joy I see.Because you speak to me in accents sweet, I find the roses waking around my feet, and I am left through tears and joy to thee. mañana por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te venga a dar. Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toro. Que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana jugosa manzana que me habla de Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le diere marco a la Virgen. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sal. Fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava de rosa accende basse. Era de maggio, io no, non me ne scordo, la canzone cantava a due voci. Più tempo passa e che un bel ricordo, fresca era l'aria e la canzone a voce. E diceva, cuore, cuore, cuore mio lontano, vai, come lassi io con dolore, chi

gloria è già spuntato un giallo mani. E voi, Biduzza mia, dormite ancora. L'accendi sono stanchi di cantare e affrettati v'aspettano qua fuori sopra suo balcone e suo musati e aspettano qua ne cava faccia. Dormiti più, can menzo di dintra stava netto, ci sogno puro io, caspetto a voi, e vedere sa faccia così bella, passo caffè. Freddo e senza sole, cercando primavera di viole, nidi d'amore e di felicità. La mia vita alla rondine partì senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Caro Tony, sono finalmente a Napoli. Devo ritrovare Maria. E soprattutto devo ritrovare quella canzone di cui non ricordo il titolo e che ci fece innamorare. Pulacenella, pulacenella, popo la po, se portati qua la tella, la resella, la riola. E mosta tarantella, nessuna va a cantare, gemò pulacenella, e tella la trova. E chi ne votta qua, e chi ne votta là, e che scumotta votta. E chi ne vota qua, e chi ne vota là, e questa vita fa, zucchete in su, zucchete in su. durmuta innamuratella come si bella napolena tiene sempre una bottella piena fuoco di verità tu sei una figliolella casa da marito insieme a pure sorella e riamena figlia e chi ne botta fa e chi ne botta là e che scuotta botta nella gara che gira e scumo nella capazia e chi ne botta qua e chi ne botta là e che sta vita fa zucchetti in su, zucchetti in su 今天的 Pops 音乐就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。